edizione. Sei 16 minuti e 44 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia e bentornati a Prima Edizione. Prima di andare a leggere quello che troviamo sulla prima pagina dei quotidiani oggi, quali sono le scelte, le notizie più importanti, una notizia che è appena arrivata e che riguarda il primo ministro pakistano Gilani, che oggi era arrivato nella sede della Corte Suprema a Islamabad per rispondere dell'accusa di oltraggio alla corte. Che cosa aveva fatto? Non aveva rispettato l'ordine di portare avanti un'inchiesta per corruzione contro il presidente Zardari. Ebbene, la Corte Suprema pakistana ha ordinato il rinvio a giudizio del primo ministro Gilani per il reato di oltraggio alla corte. Adesso vedremo che cosa succederà in una situazione politica che evidentemente in Pakistan si sta facendo piuttosto confusa. Noi veniamo, come si diceva, alle prime pagine dei quotidiani. Inizierei dal Corriere della Sera. Scusatemi, prima dei giornali, naturalmente, il traffico. Prima edizione. Adesso veniamo veramente alle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola e iniziamo, come si diceva, dal Corriere della Sera. L'apertura, il titolo di apertura è assedio al Parlamento greco, guerriglia contro i sacrifici chiesti dall'Europa, dossier di Bruxelles, Italia poco competitiva. Fiamme, scontri, black bloc scatenati mentre si votano i tagli. Questo il titolo per la cronaca. E c'è una lettera aperta a Mario Monti di alcune persone, tra cui economisti. Roma e Berlino insieme per l'Europa. L'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera, il commento, l'analisi è di Dario Di Vico, del vice direttore, riguarda la corsa alla successione in Confindustria tra Bombassei e Squinzi. Chi guiderà gli imprenditori? Questo il titolo del commento di prima pagina di Dario Di Vico. C'è da segnalare sempre in prima un commento di Vittorio Messori sul tema della Chiesa. Chiesa e società, una fede indebolita nei palazzi degli intrighi. Questo fa seguito, ve lo ricorderete, a quello che aveva pubblicato nei giorni scorsi il Fatto Quotidiano, che aveva parlato addirittura di un complotto per uccidere il Papa entro 12 mesi. A centropagina le notizie scelte dal Corriere della Sera sono due. La prima riguarda la morte di Whitney Houston con una grande foto, il talento, la bellezza e il dolore. Scusate, addio a Whitney. E Genova, schiaffo al PD, alle primarie vince il candidato di Vendola, un pezzo a firma di Marco Imarisio, un bel racconto sulla città a firma di Aldo Cazzullo. Una città, un paese, si vive meglio ma conta meno. Il racconto invece sul freddo è affidato alla firma di Virginia Piccolillo. In elicottero sulle case sepolte dalle neve, Abruzzo, decine di frazioni isolate, un'anziana trovata morta nel suo orto ad Ascoli. Questo il quadro per la prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica, ancora più forte il titolo sulla Grecia, sia l'austerity, Atene brucia, così il titolo. 100.000 in piazza, basta sacrifici, il voto nel Parlamento assediato. E ancora si parla di black bloc scatenati, di assalto alle banche, di negozi distrutti, di molotov sulla polizia, di centinaia di feriti, tra i manifestanti anche il musicista Theodorakis. Titolo importante in prima c'è anche la questione dell'articolo 18, ve lo riferivamo poco fa, parlavamo della questione dell'intesa che si sarebbe trovata tra il governo e la CGIL, un'intesa della della quale aveva parlato proprio Repubblica e smentita dal governo e dalla CGIL. Camusso e Premier nessun vertice segreto, ma Repubblica conferma. Il titolo è articolo 18, bufera sull'intesa, Monti accelera. Un editoriale di prima pagina a firma di Massimo Giannini, il vice direttore, che è il dovere della notizia. A centropagina la Lega Araba che abbandona Assad e dice in Siria è urgente l'intervento delle Nazioni Unite. Sulla Grecia firma invece Gad Lerner, il bastone dell'Europa. L'inizio, per darvi un'idea del tono, è questo: davvero qualcuno pensa di salvare l'Europa così, spezzando le reni alla Grecia? Proprio a ciò stiamo assistendo con disagio, l'illusione nefasta di restituire unione al vecchio continente con il bastone dell'austerità. Titolo ovviamente anche qua su Whitney Houston: alcol e farmaci uccidono la regina del pop. Di taglio basso Genova, le questioni di Genova, con il PD sconfitto, Doria vince le primarie, vittoria dell'outsider, e un dossier, c'è anche un dossier sulle Olimpiadi 2020, Roma, i giochi in tempo di crisi. Questo per quanto riguarda la Repubblica, e dedica anche un titolo alla figuraccia Inter, il campionato figuraccia Inter, capo con il Novara, Moratti contestato. La Stampa, Atene, banca in fiamme, il governo, sacrificio il baratro, ok del Parlamento al piano di austerity. E un commento di prima pagina di Stefano Lepri, cosa ci dice la rabbia dei greci. Da segnalare anche quello, ancora la vittoria a Genova di Marco Doria, e la scelta del titolo è schiaffo al PD, vince Vendola. Ci sono anche notizie di cronaca come la vicenda dell'Aquila, che avrete sentito, una ragazza di 20 anni è stuprata, ci sono sospetti su un soldato fuori da una discoteca. Oggi ci segnala la Stampa, e questo è un altro elemento importante, c'è la sentenza Eternit, amianto, oggi la sentenza Eternit, attesa tra ansia e paura, i padroni dell'azienda rischiano 20 anni, Guariniello accusa gli imputati, mi fecero spiare prima dell'indagine. Anche qua, titolo sul miracolo Novara, è l'ammazza Inter, perché appunto non è che l'ha battuta la prima volta. C'è un'intervista al ministro Severino, il ministro della giustizia. In carcere si muore di freddo, è una vera tragedia, dice il ministro. Un secondo indulto non servirebbe. Comunque sulla cancellazione della pena si può decidere soltanto il Parlamento. Così il ministro Severino, intervistata dalla Stampa. Bel racconto di Paolo Mastrolilli, che è l'inviato a New York. New York, mafia in crisi, il padrino si è estinto, gli ultimi arresti e la partecipazione ai reality hanno ridicolizzato le famiglie italo-americane. Il Messaggero, Grecia rivolta contro i tagli, il Parlamento vota le misure, esplode la guerriglia in piazza. Anche qua devo dire che i commenti sembrano un po' tutti più o meno sullo stesso tono. Medicina amara che non risolve la crisi, pezzo a firma di Luca Cifoni. Anche qua si parla del Vaticano, la firma in questo caso è di Lucetta Scaraffia, la svolta del Papa, Vaticano, la verità dietro i conflitti. E ancora centropagina, titolo sul grande freddo, fino a giovedì a Roma oggi riaprono scuole e uffici, e un titolo dedicato a Whitney Houston. Questo il quadro per quanto riguarda il Messaggero. Un'occhiata al Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore edizione del lunedì, apertura è sulla grande mappa della crisi, impatto pesante in Calabria e Molise, da Liguria e Trentino la miglior difesa, si parla di economie locali, distretti industriali e mercato del lavoro. Fisco più semplice in due mosse, il titolo di centropagina, si punta sul reddito d'impresa, dai costi blacklist alle perdite sui crediti, l'intervento combinato tra decreto legge e riscrittura della delega già all'esame del Parlamento. Si segnala che da domani con il Sole 24 Ore ci sarà Impresa e

portato a nulla, è molto difficile adesso dire. Innanzitutto abbiamo sbagliato e questo è stato tranquillamente ammesso dal partito, da Papandreou, cioè dal Partito Socialista, che poi al momento attuale è solamente uno dei partiti che sopportano la presidenza Papadimos. È molto difficile dire questo nuovo pacchetto sarà risolutivo, consentirà il ritorno del paese all'economia di mercato nel 2020, quando il rapporto indebitamento prodotto nazionale lordo sarà al 120%. E questo perché nel corso di questi due anni e mensilmente si registra un'erosione preoccupante della base fiscale, cioè del gettito fiscale, e nonostante gli aumenti delle aliquote. Quindi secondo lei erosione della base fiscale, insomma base della di popolazione fiscale, il rischio non ci sia un piano di rilancio e di sviluppo e di crescita? Il piano di rilancio, di sviluppo e di crescita non c'è al momento attuale, è molto in subordine. E ora, prima di sentire che cosa sta succedendo su strade e autostrade, ci occupiamo di calcio e vogliamo farlo con il nostro Dario Ceccarelli. Dario, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. E più che di calcio, naturalmente, si parla di Inter stamattina. Sì, di disfatte, di crolli, naufragi, no? Quando si parla dell'Inter in questo periodo così, e tra l'altro è curioso perché tre settimane fa l'Inter era la squadra del momento, 7 vittorie in fila in campionato, una in Coppa Italia. Adesso niente, hanno ieri con Novara hanno rimediato un KO che non subivano da 59 anni, e fuori in Coppa Italia contro il Napoli, un punto nelle ultime quattro partite di A. Sì, poi c'è l'aspetto simbolico, perché il Novara era stata la squadra che aveva poi fatto saltare Gasperini nel girone d'andata. Che dire, l'Inter non si può dire che abbia proprio giocato malissimo, perché ha avuto molte occasioni da rete, dovevano darle un rigore eccetera, però alla fine i risultati sono questi. C'è una squadra che sembra impazzita e un allenatore, Ranieri, che per quanto confermato insomma traballa paurosamente, tira un po' di aria da Capello forse. Sì, può darsi, io non credo, perché Capello cioè probabilmente sarebbe l'ennesima così toppa, perché arriverebbe in un... Io credo che Moratti, per quanto contestato ieri, i tifosi erano imbufaliti allo stadio, hanno tirato fuori cori su andate a lavorare, tirate fuori gli attributi, c'era un po' di tutto, però io credo che ormai Moratti si tenga questo allenatore. Il pericolo è che l'Inter rischia di chiudere il 2012 senza nulla, che mai era successo nel post Calciopoli. L'Inter dopo Calciopoli insomma aveva sempre portato a casa qualcosa. È una squadra che avevano detto adesso tornerà Snyder, torneranno tutti gli anni, da quando sono tornati le cose non funzionano più e veramente non si vede una bussola. L'unica cosa che forse Ranieri è un allenatore abituato a stare in queste situazioni, probabilmente riuscirà a rimettere un po' in ordine, però è una squadra che è da rifare, da rifondare. Prima edizione. Le 6, 46 minuti e 52 secondi. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Ad un mese esatto dal naufragio della Costa Concordia, torniamo all'isola del Giglio, che ricorderà con una messa le vittime. Nella chiesa del porto verrà portata anche la Madonnina recuperata dai sommozzatori all'interno della nave. Ieri sono iniziate le operazioni di pompaggio del carburante e questo ci rasserena, commenta il sindaco Sergio Ortelli in quest'intervista a Raffaella Calandra. Si parla di un pompaggio che è già iniziato e che nel giro di circa 6 giorni dovrebbe essere completato. Se le condizioni del tempo restassero positive, ecco, in circa 6 giorni vi hanno assicurato che tutte le 2000 tonnellate di carburante verranno portate via dalla Concordia? Non tutte, un 67% circa, corrispondenti a 1520 tonnellate, quindi la parte più importante dovrebbe essere rimossa e quindi attenuare quei rischi potenziali di cui avevamo parlato nei giorni scorsi. Il rischio di che alla tragedia del naufragio e alla tragedia delle vittime si potesse aggiungere anche il pericolo di un disastro ambientale, ma perché non viene svuotata per intero? Ci sono nel piano operativo due momenti diversi. Questo momento è il momento di una situazione dei serbatoi molto più praticabile e molto più fruibile, mentre invece la seconda parte sarà più difficoltosa perché riguarda la parte della nave che ha il contatto con il fondale marino. Il carburante viene pompato e trasferito in una nave cisterna, giusto? Sì, il collegamento è nave Concordia, pontone e nave cisterna. La proiezione fatta sui tempi è di circa 28 giorni, condizioni meteo marine permettendo. Quindi ad un mese dal naufragio, con l'avvio di queste operazioni vi rasserenano. Indicazioni sullo spostamento del relitto ancora non ne avete avute voi? Non ci sono ancora prospettive, sicuramente la tempistica è un aspetto molto importante, ma la modalità di rimozione, cioè quello che noi auspichiamo è che la nave venga rimossa nella sua interezza, con tutto il suo carico di liquidi, di sostanze tossiche o meno, ma anche purtroppo con il suo carico di dolore che porta all'interno. Certo, ci sono ancora 15 persone tuttora disperse e si contano purtroppo 17 vittime già accertate. Ad un mese dal naufragio, l'isola come ricorda le vittime della Concordia? L'isola celebrerà questo suffragio, questo tredicesimo, per ricordare le vittime e per stringersi con affetto e con cordoglio attorno alle famiglie anche dei dispersi. L'isola con una messa parteciperà ancora del dolore dei naufraghi? Esatto, sì, l'isola che a mio parere non si è ancora risvegliata da quella notte continuerà a partecipare con affetto anche nei confronti dei familiari che sono ancora sull'isola ed altri ne arriveranno. Ma la Madonnina alla fine è stata messa nella chiesa oppure è stata portata dai vigili? La Madonnina verrà posta nella chiesa. Prima edizione, l'informazione del mattino. Prima edizione, l'informazione del mattino che si chiude qua. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni in redazione. Un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci risentiamo tra poco con il giornale radio.